Ecco, allora io quasi quasi vi inviterei a prendere posto, che così iniziamo. Abbiamo con noi anche questa sera in collegamento Alberto Faustini, per cui vorrei iniziare la conferenza in maniera puntuale, anche per rispettare i tempi e il collegamento. Vi do il benvenuto, grazie di essere qui con noi in questa serata interessante e particolare dedicata alla storia del giornalismo, la storia del giornalismo anche declinato a livello locale, con un rappresentante direi straordinario quale Maurizio Ferrandi, con cui la Biblioteca d'Anni ha un bel rapporto di scambi, di suggerimenti, di presentazioni, insomma c'è una collaborazione che si è consolidata nel tempo. Ringrazio tutti voi di essere qui presenti. Le nostre attività hanno come scopo quello sempre di favorire l'incontro fra autori, autrici e il pubblico, ma anche di stimolare un dibattito e delle letture nuove, con la curiosità di leggere sempre qualcosa di nuovo. Abbiamo con noi questa sera non solo Maurizio Ferrandi, che saluto e ringrazio, ma anche Alberto Faustini, che si collega con noi in remoto da Roma e che saluto cordialmente. Buonasera, ciao Alberto. Bene, buonasera. Allora, ecco, quindi questa è la nostra serata. Vi vorrei dare qualche avviso rispetto alle prossime iniziative. Giovedì e venerdì, fra due giorni, abbiamo due serate dedicate alla musica che si intitolano Aspettando il premio Claudio Augusta, che poi avrà luogo invece lunedì 16 dicembre. Sono due serate che organizziamo insieme all'Istituto Musicale Vivaldi. Ci sono giovani cantanti e musiciste, musicisti che si esibiranno qui presso il Centro Trevi, e così creando un clima natalizio ci aiutano ad arrivare a lunedì 16 dicembre, quando alle 17:30 presenteremo le tesi di laurea premiate quest'anno. Mentre martedì 17 concludiamo la nostra attività del 2024 con la presentazione di un libro e di una ricerca dal titolo Attraverso i confini e tra le discipline, le vicende intellettuali e biografiche di Grete De Francesco Weissenstein, 1893-1945. È l'esito di una ricerca, di un carteggio ritrovato fortuitamente durante il Covid e che è stato oggetto di studio da parte dell'Università di Napoli, ma anche di tanti altri istituti, compreso l'AMPI, e anche i partecipanti a questa serata sono numerosissimi. Ma quello che emerge dal carteggio sono i contatti che questa signora ebbe con l'intelligenza, ma soprattutto con il mondo intellettuale d'Europa nel periodo prebellico e durante la guerra. Voglio ricordarvi semplicemente che questa signora poi è stata vittima dell'Olocausto e quindi insomma è anche un emblema di quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale, e per noi era significativo poter presentare questo lavoro anche in collaborazione con tante istituzioni. Questo è l'appuntamento conclusivo dell'anno, il 17 dicembre. Per ulteriori informazioni avete le cartoline a disposizione. Intanto lascio la parola ai nostri due ospiti, che ringrazio ancora, e colgo l'occasione per augurarvi anche delle felici feste, buon Natale e un felice anno nuovo. Prendo subito la parola, mi impadronisco subito della parola per dire alcune cose. Innanzitutto ciao Maurizio, un saluto a tutti quanti, mi spiace essere lontano. Sapete che sono in esilio, è un esilio non celto, ma comunque molto interessante. Questa volta mi ritrovo a presentare un libro in modo diverso dal solito, non solo perché sono a Roma, ma perché è un libro nel quale il mio nome compare più volte, e compare più volte soprattutto il nome di mio padre, per cui mi sono anche emozionato leggendo il libro di Maurizio. Come dice il titolo, colonne di storia, ma si potrebbe anche tradurre in storie di colonna, si potrebbe girare in diversi modi, perché si scopre che la storia in questa terra passa attraverso le colonne dei giornali, passa attraverso le persone, passa attraverso un rapporto nord-sud, inteso come sud-sud Tirolo, si sarebbe detto un tempo, e sud Tirolo, un rapporto ancora molto aperto, perché già leggendo le pagine ahorita si scopre che ci sono due compartimenti stagni, che anche quando le aziende hanno cercato di unire non ci sono in realtà riuscite. E vedo che mi chiama Giorgio Ruggero Carli, spero che mi senta bene mentre parlo in sala, se mi sentite semmai fatemi sapere, fatemi un gesto. Quello che volevo dirvi è che vedere comparire i nomi di De Gasperi, di Mussolini, veder comparire i nomi di Cesare Battisti e di molti altri in Trentino, vedere invece altri nomi comparire in Alto Adige nell'assenza quasi di un dialogo fra questi due territori, assenza che emerge con chiarezza nel libro di Maurizio, libro che ci racconta anche due secoli di storia, senza i giornali questi due secoli non saremmo proprio riusciti a raccontarli. Maurizio, però partirei da una cosa, ed è questa. Cosa ti ha colpito di più nel rapporto appunto tra Trento e Bolzano? Perché tu ti sei occupato dei giornali che nascono prima in Trentino e poi in Alto Adige, ci sei occupato dei cambiamenti, dell'avvento del fascismo, ti sei occupato di censura e di quello che accade oggi, però appunto di fronte a questa diversità che alla fine è rimasta tale dall'inizio alla fine, come ti sei posto? Bene, mi sentite? Sì, allora innanzitutto grazie. Una premessa velocissima. Perché Alberto Faustini? Perché ho insistito? Quando lui ci ha detto che non poteva essere qui fisicamente, abbiamo provato a spostare l'appuntamento, ma non ce l'abbiamo fatta perché sono talmente bravi questi del Trevi e della biblioteca che hanno un programma assolutamente pieno. E io credo che non avrei voluto nessun altro. Se non ci fosse stato Alberto, avrei preferito presentarmi qui da solo e raccontarvi io qualcosa, per un motivo molto semplice, lui l'ha già accennato. La storia del giornalismo, dei giornali e dei giornalisti in questa regione l'ha scritta, quasi direi in maniera alluvionale, suo padre. Non si contano i saggi che ha scritto per il Cristallo, per il Mulino, libri, c'è una trilogia di volumi editi dall'editore Pancheri una ventina, 20, 25 anni fa. Ha scritto tutto. Quello che voi leggete in questo libro non è che una sintesi ragionata di quello che Gianni Faustini... E bello è che scriveva queste cose mentre faceva il direttore dei giornali. Io, sinceramente, tutta la mia ammirazione. Se andate a vedere la bibliografia sterminata di Gianni Faustini in calce al volume bellissimo che gli ha dedicato per il Museo Storico del Trentino Daniele Benfanti, voi vedete che gli anni nei quali questo signore dirigeva prima l'Alto Adige, poi l'Adige, prima ancora la Rai, sono anni fecondi di saggi, di interventi, di cose. Quindi, ecco, e poi Gianni Faustini, assieme ad un altro nome, che è quello di Piero Agostini, è uno dei pochi trade union. Tu mi domandi Trento e Bolzano. Ecco, Trento e Bolzano si sono sempre mosse fin dall'Ottocento su percorsi abbastanza divergenti o quantomeno separati, paralleli. Ci sono stati, i legami sono venuti da alcune figure. Una è quella di Gianni Faustini, che comincia all'Adige di Trento, poi passa alla Rai, poi viene alla Rai di Bolzano, poi passa all'Alto Adige, ma poi torna a Trento all'Adige. Un'altra è Piero Agostini, che comincia all'Alto Adige, a Rovereto, poi a Trento, poi a Bolzano, poi alla Rai di Bolzano, ma poi ritorna all'Adige. Ecco, queste sono le figure che in qualche maniera hanno legato dei prodotti che peraltro sono sempre rimasti abbastanza separati. Io ho per qualche anno avuto l'avventura di dirigere il telegiornale, la TGR, la redazione di Bolzano, e so quanto ci abbia pesato, ci sia stato fatto pesare il fatto di fare un prodotto regionale. E quanto noi avremmo voluto farlo in maniera diversa, ma non ci è stato permesso. Però la regionalità era considerata, abbiamo sempre avuto forti pressioni per abbandonarla, questa regionalità. Quindi anche nel mondo dell'informazione, come in altri mondi, le due realtà si confrontano, si guardano, a volte in cagnesco, a volte semplicemente ignorandosi, però anche nel mondo dell'informazione le strade sono abbastanza separate e mi pare che continuino ad esserlo. Mi introduce un tema che mi è caro, visto che hai fatto due nomi, Maurizio, il nome di mio padre, il nome di Piero Agostini, insomma, io ho avuto la fortuna di chiamare zio in anni lontani, che però sono due nomi di trentini, va detto questo, cioè sono i trentini che sono arrivati in Alto Adige, che poi in un curioso pezzo di vita circolare poi sono tornati a Trento, sono andati a Roma con i carichi nazionali. Secondo me forse nel libro manca un po' un'enfatizzazione della figura di Paolo Pagliaro. Te lo dico per due ragioni. Una è che Piero Agostini certo cambiò l'Adige, come tu ricordi, perché fu il primo laico a dirigere l'Adige, però Piero Agostini non cambiò il giornale, nel senso che i vari capi di settore restarono gli stessi. Sembra un argomento di poco conto, ma quando racconti ad esempio del Giorno e del ruolo del capocronista Gianni Bianco si capisce quanto siano fondamentali gli ingranaggi fatti da capi, fatti da persone dentro i giornali, mentre fu Pagliaro a rivoluzionare la struttura del giornale mandando una serie di giovani al potere, con un caso di scuola secondo me, perché da quella piccola esperienza uscirono, pensate, 7 direttori di giornali. Penso che in un giornale piccolo come fu l'Adige in quegli anni non ci siano paragoni a livello nazionale, su un giornale capace di produrre in pochi anni appunto 7 direttori. Però ecco, la cosa che manca in questo dialogo è appunto questo rapporto fra Trento e Bolzano. Però la cosa che incuriosisce è che comunque c'è questo grado di lettura sempre altissimo, che da una parte, come tu scrivi Maurizio, è frutto sicuramente dell'impostazione asburgica di una scuola dell'obbligo che c'era 100 anni prima che arrivasse in Italia in questo territorio, ma è frutto anche del desiderio di capire. Infatti tu spieghi che i giornali non raccontano solo quello che accade sul territorio, ma raccontano di fatto anche le diverse ideologie, le diverse impostazioni politico-culturali. È un caso unico in Italia anche questo, non solo quello di avere tanti giornali, ma anche quello di avere giornali con una linea ben precisa. Certo, qui l'esempio più interessante è quello della seconda metà dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento, prima della grande catastrofe, io così la chiamo. Certo, per esempio prendiamo a Bolzano, io racconto questa storia, quella della festa della luce, perché è emblematica. A Bolzano si fa la festa della luce per celebrare l'arrivo, con un certo ritardo rispetto al resto del mondo, il 10 novembre del 1861, pensate, in Italia si fa l'Italia unita e qua si fa la festa della luce per arrivo dell'illuminazione a gas. Succede che però quella sera feste, bande musicali, treni speciali, ogni sorta di divertimento, però i campanili delle chiese restano bui, perché la curia di allora dice: no, questa cosa qua è una cosa semipagana con la quale... E lì scoppia una violentissima polemica con le autorità che invece appartengono al Partito Liberal Nazionale. Allora i cattolici cosa fanno? Il giornale dei Liberal Nazionali, che è la Bozner Zeitung, li attacca e i cattolici fondano un loro giornale, il Tiroler Volksblatt. Cioè sono giornali che hanno come scopo dichiarato quello di difendere, oltre che di dare le notizie, ma di difendere una certa visione del mondo, una certa idea politica, e così si va avanti. Qui nel Trentino la cosa è ancora più smaccata. Tu hai citato, abbiamo 3 grandi correnti politiche in quel periodo, sono i liberali, che hanno il loro giornale che si chiama Alto Adige perché richiama l'esperienza liberale napoleonica, c'è il Popolo di Cesare Battisti e poi c'è il Io scusate quei nomi, Trentino, la voce. La voce del Trentino, che poi diventa il giornale quotidiano e che è diretto da un certo Alcide De Gasperi. Quindi noi abbiamo dei giornali che sono delle palestre politiche e, come hai detto, siccome c'è un sacco di gente che è in grado di leggere, perché si va a scuola da queste parti, l'analfabetismo è a livelli abbastanza bassi, molto molto molto più bassi rispetto al resto d'Italia, ad esempio, e quindi i giornali sono lo strumento con il quale si forma una coscienza sociale, una coscienza politica, col quale si diffondono le idee, col quale si litiga, col quale ci si azzuffa. Memorabili le polemiche del giovane Benito Mussolini nel 1909, in quel breve periodo in cui viene mandato qui a dare una mano a Battisti. E tutto questo dura anche in parte per qualche anno dopo la guerra. La guerra impone, e poi arriva il blocco del fascismo che chiude tutto, silenzia tutto e manda avanti solo i propri fogli d'ordine. E poi si dovrà arrivare al secondo dopoguerra, dove le cose sono lievemente diverse, non c'è più il giornale di partito. L'Adige lo è, di fatto, a Trento. L'Alto Adige è un giornale non di partito, ma fino all'inizio degli anni 70 di parte, piuttosto dura sul piano della polemica etnica. Questo è un tema interessantissimo, perché va anche detto che è vero che l'Adige è fondato da Tannio Piccoli, leader democristiano, che tra l'altro costruisce la sua carriera politica anche con la direzione dell'Adige, ma è anche vero che parlava a un territorio specifico che era fortemente cattolico, fortemente democristiano, non a caso ereditava la tradizione di De Gasperi, per cui c'era anche forse un tema commerciale, oggi diremo. Ecco, su questo però ti voglio chiedere una cosa: il ruolo della Curia, perché emerge tanto a Trento quanto a Bolzano quanto sia importante il ruolo di una certa chiesa, sia di una chiesa illuminata che per esempio è comparsa spesso dentro il consiglio di amministrazione dell'Alto Adige, sia di una chiesa magari un po' più reazionaria come quella che c'è stata all'inizio dietro l'Adige. Però il Dolomite negli anni più importanti è stato diretto dal canonico Gamper, per cui la chiesa in questa terra ha avuto un ruolo secondo me unico addirittura in Europa, non solo in Italia. Ecco, qui c'è da dire una cosa, è una cosa che non so perché non fa piacere, perché non è un dato negativo, è un dato di fatto. E dobbiamo prendere un anno, il 1926. Nel 1926 c'è già stato il delitto Matteotti, il governo fascista sta diventando regime, sta diventando dittatura, e uno dei passaggi chiave, oltre all'eliminazione dei partiti politici, è quello anche di radere al suolo tutte le voci di stampa non allineate. E qui succedono due cose, ed è interessante vedere come succedono a Trento e come succedono a Bolzano. A Trento, nel gennaio del 26, De Gasperi si dimette da direttore del giornale perché spera in questa maniera di sgravare il giornale dalla sua presenza, che ormai è quella di un nemico odiato e giurato del regime. Questo non basta. Nel novembre i fascisti invadono la tipografia, la redazione, e chiudono nella maniera più brutale il giornale. Ora badate bene che questo è un fatto abbastanza isolato, cioè in Italia i fascisti riservavano questo tipo di trattamento ai fogli dei rossi, socialisti, comunisti. Era raro che sul giornale cattolico si intervenisse in questa maniera squadristica. A Trento succede, probabilmente perché a Trento i cattolici alla De Gasperi erano una forma di opposizione al fascismo piuttosto dura, e quindi erano temuti, bisognava chiudere. Nello stesso anno a Bolzano il proposito di eliminare le testate c'è anche nei confronti di un altro giornale cattolico, che è questo giornale, che non è quello della Dora della Luce, perché questo nasce il 1 gennaio del 1900 con il Nuovo Secolo, si chiama Der Tiroler, e la casa editrice che lo edita è la Tirolia. Poi arrivano il 22, il 23 e il prefetto Guadagnini abolisce il nome Tirolo e quindi devono cambiare nome. Il giornale diventa Landsman, la casa editrice diventa Vogelweider e poi ancora ci sarà un altro cambiamento, quello definitivo. Il giornale diventerà Dolomiten e la casa diventerà Athesia. Questo a metà degli anni 30 già. E però vedete bene che succede una cosa diversa. A Trento, tabula rasa. A Bolzano, eccolo qua, la Curia. La Curia si muove. Si muove la Curia, si muove il Vaticano, attraverso un paio di figure non di scarso rilievo. C'è padre Tacchi Venturi, che è l'emissario del Papa, che è l'ufficiale di collegamento con Mussolini. C'è il cardinale Gasparri, che poi verrà sostituito in questo ruolo da Montini. E loro ottengono per le pubblicazioni della casa editrice, perché non c'è solo il Dolomiten, adesso io dico Dolomiten, ho dato, c'è il Volksbote. Ecco qua per esempio un ragionamento, Volksbote è il settimanale che va in tutte le case, anche quelle dei contadini, anche le cose. Dolomiten è il giornale più per la borghesia, per le cose. E questi dice no, cosa nostra sono giornali della Curia, sono giornali, non era così come il giornale di De Gasperi, non era il giornale della Curia, non era la Vita Trentina, non era quello che sarà il Dolomiten dei cattolici e Stontax, erano dei giornali cattolici, però questo inserirli nella cosa li protegge, li mantiene in vita, e lo stesso succederà nel 29, concordato, e ancora nel 35, quando con la scusa della mancanza di carta per le inique sanzioni per la guerra in Abissinia, i fascisti di qui, che temevano il ruolo di questi giornali, pur sottoposti a censura, cose, però faceva paura, riusciranno sempre a sopravvivere. Tant'è vero, e finisco subito e ti rilascio la parola, che Mussolini nel 27... quando dà quel foglio di istruzioni al primo prefetto di Bolzano, fa un passaggio, dice: io preferisco che ci sia un giornale tedesco di lì che possiamo controllare piuttosto che questa gente legga i giornali germanici o austriaci. Ecco, in questo caso il ruolo della Curia, il ruolo del Vaticano è stato fondamentale per creare cosa? Per tutto il resto delle pubblicazioni viene cancellato e c'è il monopolio, che poi si riproporrà automaticamente all'indomani nel 1945. Torna ciclicamente. E una delle cose molto interessanti del nostro territorio, che tu hai ben raccontato attraverso le colonne di storia, sono gli arrivi improvvisi del Gazzettino a Trento, del Giorno Bolzano, dei dorsi del Corriere della Sera, cioè Bolzano e Trento quasi come laboratori da una parte, per cui luoghi nei quali sperimentare anche nuove forme di fondità giornalistica, lasciami dire, e dall'altra però una testimonianza che resta tale, perché non riescono quasi mai a sfondare queste esperienze. Si tende a leggere il giornale come si tifa una squadra di calcio, cioè per tutta la vita, per cui non si è disposti a cambiare passando dall'Alto Adige al Mattino, dall'Alto Adige al Corriere dell'Alto Adige, non si è disposti a provare davvero fino in fondo il Giorno, che pure aveva, come tu ricordi nel tuo libro, portato via tutta la redazione, di fatto dei personaggi principali, le firme principali dell'Alto Adige in quella lontana stagione, per cui da una parte si arriva, si prova, si sperimenta e si ritiene la piazza importante, dall'altra sono esperienze che non riescono a sfondare. Se togliamo per un breve periodo il Gazzettino, che poi cercherà in modo velleitario di tornare negli anni Ottanta, ma senza successo. Beh, è chiaro che le leggi di mercato sono quelle che sono. Qui si è sempre letto, tu lo dicevi, più che altrove. Le statistiche sulla lettura dei quotidiani hanno sempre visto il Trentino Alto Adige in vetta a livello nazionale. Chiaro che anche questo aveva dei limiti e le presenze alternative al giornale, se pensiamo che a Verona anche i tentativi, che è una realtà bella, bella piuttosto, non si è mai riusciti a mettere insieme un'alternativa all'Arena, quindi non è solo una questione di Alto Adige e di Trentino. La storia del giorno è particolare perché ne parlavo con uno dei protagonisti, che è Tony Visentini, che è qui. Cioè, è interessante. E mi pareva di vedere anche Sitton, altro giovane cronista. Altro giovane cronista. Sì, è la storia del giorno mi incuriosiva, perché capisci, tu hai citato tuo padre, però capita anche a me di essere in una stirpe. Per cui io questa storia del giorno che aveva portato via i redattori, tutti, in una notte, l'ho vissuta da ragazzo di 13 anni a casa. Figlio di Ferrandi, a tua volta. Cioè. Come se avessero bombardato l'edificio dove vivevo, probabilmente lo sconcerto sarebbe stato minore. Quindi io ascoltavo, capivo e non capivo, assumevo. Poi adesso sono andato a rileggermi quelle pagine conservate alla Biblioteca Civica di Bolzano. Sono una cosa interessante, perché l'unica cosa che non ci troverete è la polemica contro l'Alto Adige per le posizioni nazionaliste. Quella non ce la troverete, potete cercarla finché volete, troverete degli articoli nei quali si parla di un futuro, di una nuova autonomia, ma non... Se la storia del giornale creato per andare contro, no, troverete tante altre cose che in quel periodo sull'Alto Adige non trovavate. Per esempio, ecco, ne discutevamo prima con Toni, un'attenzione al sociale ma molto forte, e per esempio agli spasmi di un mondo cattolico che viveva la fase post-conciliare con estrema difficoltà, con estremo impegno. Ecco, io vorrei dire un'altra cosa velocemente. Tu mi rimproveri, sì, Pagliaro, io ho fatto una scelta forse sbagliata, che è stata quella di fare dei piccoli ritratti di persone di quel periodo, lasciando forse in ombra quelli che sono venuti dopo. Ce n'è una però che io continuo a ricordare, perché non se la ricorda più nessuno, e che invece merita, e che è quella di Servilio Cavazzani. Servilio Cavazzani. Un altro Trentino arrivato a Bolzano, commerciante di vini, che nel secondo dopoguerra si inventa editore di alto livello, perché era come editore, era molto bravo, era un uomo che da cui posizioni, e le posizioni che ha fatto assumere il giornale possono essere discusse, discutibili, io non voglio neanche, sono talmente evidenti, però quel giornale quel è stato un punto di riferimento a Trento anche, oltre che a Bolzano, ecco uno degli elementi chiave, ed era un uomo, un grande appassionato di cultura, e quindi... È un uomo che gestiva il giornale in maniera padronale, uno di quei padroni di una volta, che non si faceva dire da nessuno quello che doveva fare o che voleva fare. Però è un personaggio che ha contato qualcosa nella Bolzano di questi anni e che invece è stato completamente abbandonato all'oblio, come tante altre cose. Dire che però nel libro lo ricordi molto bene, perché ci racconti... Vabbè, vado avanti io. Fino a che non torna Alberto, vado avanti io. Beh, Servilio Cavazzani è un altro, tra i personaggi a cui dedico uno spazio particolare, cioè ovviamente non potrebbe essere altrimenti Canonico Gamper. Questa figura. Questa... Eccolo qua. Vai. No, dicevo, è saltata la linea. Dicevo che Servilio Cavazzani lo ricordi molto bene il libro, racconti anche che ruolo politico ha avuto, che apporti con Roma ha avuto, la capacità di portare le pagine tedesche sul giornale, nel tentativo da una parte commerciale ma dall'altra anche politico di dare un'altra voce ai lettori tedeschi, per cui insomma, racconti molto bene quella stagione, così come si coglie anche che invece il figlio Albino era quasi un prestanome in quella stagione, perché il vero padre padrone, l'hai detto, era Servilio, anche rispetto alla linea, anche rispetto agli articoli del giornale, appunto che tu poi citi anche qualche pseudonimo dietro il quale si celavano o lui o altri personaggi. E qui emerge però anche forte la questione identitaria di cui parli, perché i giornali non sono mai stati neutri e neutrali nel nostro territorio. Prima abbiamo detto qualcosa, cioè tradizione cattolica, tradizione liberale, però quando si arriva in Alto Adige si va un po' oltre. C'è un giornale che difende fortemente gli italiani, accusato ormai anche in parte ingiustamente di essere fascista, in realtà era nazionalista italianista, ma questa è un'altra storia, e dall'altra hai citato Dolomite e altri fogli che invece erano fieramente tedeschi e che quasi mai hanno assunto delle posizioni all'insegna della convivenza, del dialogo. Questo va detto, in quegli anni il dialogo certo non passava attraverso le pagine di giornale. Sicuramente no, sicuramente fino almeno alla fine degli anni 60 non si vede molto che possa portare verso una capacità di parlarci. Ci si scontra quotidianamente, brutalmente a volte anche. Io ho citato alcuni esempi, sull'Alto Adige c'era... Gli editoriali politici erano di Civis, che era Caioli, che è un ex funzionario dell'ufficio zone di confine, quindi fatevi un po' un'idea, e che era rimasto un personaggio di un certo rilievo negli ambienti ministeriali di Roma. Poi c'era Spectator, sul quale evidentemente Spectator... vabbè. Qui ognuno... Certo, ancora un po' il mistero su Spectator. No, beh, no? Mica tanto. Diciamo che... Cavazzani è mio padre sostanzialmente, esatto. qui c'è davanti a me Paolo Berloffa, e questi con Berloffa ce l'avevano in una maniera tale che a Berloffa rimase una sorta di imprinting negativo su questa cosa, per cui io con Berloffa ho avuto un ottimo rapporto, però ogni tanto lo coglievo che mi guardava e mi diceva: Ferrandi, cioè gli tornava in mente e diceva il cognome che portava. Cioè, onorevole, guardi che sono passati del tempo e sono cambiate delle cose. Ah sì, va bene, però era stato talmente preso di mira, talmente... Poi però c'è da dire un'altra cosa, che ecco, verso la fine degli anni 60, ma poca cosa, nasce un piccolo periodico che si chiama Die Brücke, e lì qualcosa si intravede. Ci scrive un certo Alexander Langer, giovane insegnante, e inizia... Ci sono delle voci, Lidia Menapace, che poi però se ne va e per lungo tempo sarà assente nel dibattito politico. Ecco, diciamo che poi per lungo tempo la situazione... E poi c'è il cambiamento, un certo cambiamento all'inizio degli anni 70. Il giorno, lo ricordo per chi non lo sapesse, nasce nel 67 e chiude nel 71, in coincidenza con l'approvazione del secondo statuto. Missione compiuta, si potrebbe dire, anche se secondo me è un'affermazione un po' così. Però in quel momento muore Cavazzani, il giornale passa di proprietà, c'è una serie di passaggi abbastanza tumultuosa e cambia in parte anche l'approccio, non è più quello di prima e c'è un cambiamento lento, anche se per esempio la SVP continua a considerarlo per lungo tempo un nemico. Ricordo per esempio che Magnago non dava interviste all'Alto Adige, per lunga pezza Magnago non concedeva interviste. Il clima era questo, tanto per capirci, non di una chiusura totale. No, dicevo che hai ricordato bene Alcide Berloffa, saluto anch'io Paolo, saluto Tony, saluto Franco, saluto le persone che intravedo di spalle, perché Alcide Berloffa effettivamente è dietro Italo Pietra, è dietro la scelta di arrivare a Bolzano del giorno, è dietro quella sinistra di C che invece lavorava per il dialogo, in una terra nella quale il dialogo effettivamente non era gradito. Poi la tua battuta sul pacchetto è interessante, perché effettivamente i giornali, seppur su fronti diversi, erano contro un pacchetto che rappresentava anche il dialogo, anche la convivenza, che non piaceva né al giornale italiano né al giornale tedesco, mentre Berloffa dentro il giorno aveva lavorato molto in questo senso, per cui ha avuto un ruolo fondamentale non solo nella politica del dialogo di quegli anni, ma anche nell'editoria di quegli anni. In fondo il cambiamento dell'Alto Adige, in quel caso sì, anche con l'arrivo di mio padre, segna un passaggio fondamentale, perché si passa effettivamente dal nazionalismo alla convivenza, non è una cosa di poco conto, ci sono anche equilibri all'interno della DC che in quelle stagioni cambiano, cioè, e sono tutte cose che però nel tuo libro emergono. E ti chiedo, cosa è rimasto però di tutto questo? Cosa è rimasto di quegli scontri epici, di queste prese di posizioni quasi leggendarie? Cioè, c'è il rischio, e prima appunto quando tra virgolette ti rimproveravo su Pagliaro, semmai ti dicevo ti sei fermato soprattutto agli anni precedenti, anche se poi hai raccontato molto bene anche quelli successivi. Però sembra quasi che finiti alcuni personaggi, finite alcune prese di posizione, sia finito un pochino anche un certo tipo di giornalismo nel nostro territorio. Beh, insomma, io continuo a ritenere che col 92 sia un po' stata la fine della storia, cioè dopodiché noi andiamo avanti come se nulla fosse cambiato, però la chiusura della vertenza, la fine annunciata da Andreotti in quel drammatico discorso del gennaio 1992, l'ultimo del suo governo, forse in realtà l'ultimo della Prima Repubblica, che la Prima Repubblica si chiude con la chiusura della vertenza del tuo Tesino, ho sempre pensato che ci fosse un elemento. Ecco, io credo che dopo la situazione diventi un po' diversa e venga interpretata in maniera, sì, le tensioni etniche continuano ad esserci. Io mi sono divertito moltissimo in questi giorni a leggere i commenti dell'una e dell'altra parte sull'aumento dello 0,1% degli italiani al censimento. Ci potresti fare uno spettacolo di cabaret, intanto sono divertenti, insomma, nella loro assoluta inconsistenza, cioè il fatto di montare una di queste, parlano di una Todesmarsch perché gli italiani sono aumentati dello 0, che poi e perché sono temi che qui continuano a fornire foraggio a persone che con queste cose hanno conquistato posizioni ben retribuite. E però è sicuramente vero che un certo tipo di confronto, di dibattito, che è durato anche negli anni Ottanta, io ho citato Piero Agostini della convivenza rinviata, le scelte, le discussioni, i dibattiti, i ragionamenti che si sono fatti e che avevano un eco anche a livello nazionale e internazionale, dopodiché sono diventati materia di politica spicciola locale e i giornali si pongono in maniera a volte diversa, a volte tutto sommato abbastanza agnostica rispetto a tutta questa storia. Sui gruppi etnici fammi fare una battuta, assoluta sul Pitero, questo aumento incredibile, probabilmente dovuto al fatto che è arrivato un nuovo maresciallo di carabinieri di Pitero, nel senso che, prese le statistiche, basta un nuovo italiano di Pitero a cambiare le statistiche. E torno per un istante invece quegli anni, perché mi ha molto colpito adesso, mentre parlavi di quel libro fortunato di Piero Agostini, il fatto che molte delle cose che hanno scritto i protagonisti del tuo libro in realtà non le hanno scritte sui giornali nei quali lavoravano, non le hanno dette alla RAI, ma hanno dovuto esprimersi e con i libri, come hanno fatto Piero e mio padre, e ad esempio con la straordinaria esperienza di Tempi e Cronache. Io penso da bambino, venivo ogni tanto parcheggiato lì e al povero Adriano Morelli, che era il più giovane della compagnia, si chiedeva di portarmi a prendere un gelato. Però mi ricordo questa contaminazione meravigliosa, anche se ero molto piccolo, cioè questi colleghi che combattevano di giorno sulle colonne dell'Alto Adige, dell'Adige, non solo, anche del Gazzettino, che poi la notte andavano a mangiare insieme e poi costruivano Tempi e Cronache, cioè un giornale nel quale scrivere quelle cose che sui giornali nei quali pur lavoravano non riuscivano a scrivere. O appunto l'esperienza dei libri, che ha permesso a Piero e a molti altri di raccontare ciò che invece in TV, in radio o sui giornali non usciva. Sì, Tempi e Cronache è una cosa eccezionale. Io credo che sia un esempio unico di come giornalisti di diverse testate, e anche qua la mano che coordinava e dirigeva era quella di tuo padre, che difatti l'esperimento finisce quando lui abbandona perché deve andare a dirigere l'Alto Adige, a quel punto l'incompatibilità. Ma fin quando lui resta alla RAI, ecco che i giornalisti di lingua tedesca, di lingua italiana, ci scrivono Galmezza, ci scrive Cucera, ci scrivono altri, ci scrivono i giornalisti di Trento, ci scrive Aldo Gorfer dell'Adige, ma ci scrive De Battaglia. Cioè, sono le migliori firme che scrivono di temi che tra l'altro saranno i temi chiave, perché Gorfer comincia a portare avanti il discorso, guardate, la valorizzazione del territorio. Sono gli anni in cui adesso si parla del terreno cattoi di Riva, ma allora c'era una robettina chiamata Fassa Laurina che era al cui confronto. E lì si comincia a parlare di questi temi, di queste realtà, dei temi politici, dell'ambiente, della società che sta cambiando, di un certo mondo che si sta perdendo e di una realtà che sta cambiando forse in maniera troppo rapida. Tempi e Cronache, io me lo sono riletto alla Biblioteca Comunale di Trento, è una cosa stupenda. C'è dentro tutto e c'è questo pool di giornalisti. Tra l'altro, una cosa che amo ricordare, che della redazione faceva parte a pieno titolo Flavio Faganello, cioè il fotografo che nei giornali era stampamene due che devo rimettere un po' di nero nella pagina. No, lì le foto di Flavio sono una parte essenziale. Ecco, questo è uno strumento, ripeto, ecco, questo per esempio è uno strumento regionale. Perché forse la parte trentina è un po' preponderante, ma cioè è pensato per essere una cosa che interessa sia Trento che Bolzano. Poi chiudi il libro con l'avvento del digitale. Il digitale riuscirà, secondo te, ad avere un peso analogo, non tanto nel giornalismo quanto nella lettura, che è cambiata profondamente, non solo per i numeri, per le persone, ma anche per il modo, per l'approccio? Ma sai, io continuo a ripeterlo, ed è una cosa di una banalità, in tutto il mondo i quotidiani, quelli di carta, stanno perdendo copie. Non è una cosa di Bolzano, non è di Trento, non è italiana, in Italia dove peraltro i livelli di lettura non sono mai stati eccezionali. E ci si aspetterebbe che questo vato, soprattutto i giovani, si trasferisse sull'informazione online. Qui c'è un problema di fondo. Il problema di fondo è questo, che la gente che era sinceramente disponibile a spendere questi, cos'è, 1,80, 1,50, 2 euro al giorno per comprare un po' di carta, forse perché poi la utilizzava per pulire i vetri, per... non lo so, forse il fatto di avere qualcosa di materiale in mano gli sembrava di aver comprato qualcosa, non è disponibile o non è altrettanto disponibile a capire che se vuole avere un'informazione di qualità deve pagarla, perché per fare un'informazione di qualità ci vogliono giornalisti professionisti che facciano questo mestiere bene e non così le notiziole a chiappa clic buttate lì per recuperare un po' di pubblicità. Questo è un passaggio. Pare che dall'America arrivino degli esempi positivi. Leggo dal New York Times che qualcosa si muova. Poi bisogna vedere quanto ci metterà ad arrivare dalle nostre parti. Nel frattempo, sofferenza acuta. Perché? Perché poi c'è, Maurizio, c'è il tema dei nuovi lettori, c'è non solo il tema del nuovo giornalismo che magari passa dal cartaceo al digitale, ma ci sono nuovi lettori che, come spesso dici, sono molto meno attenti e che dedicano meno tempo alla lettura, meno tempo all'approfondimento e che spesso tendono ad essere dei tifosi, per cui cercano le notizie che riguardano il loro movimento politico preferito, la loro squadra di calcio, magari l'artista preferito, mentre noi eravamo abituati fin da piccoli a leggere opinioni diverse dalle nostre per farcene un'opinione originale. Io pochi giorni fa ho partecipato con piacere ai festeggiamenti per i 100 anni del liceo di Bolzano e mi veniva in mente il fatto che, a parte il fatto che ho parlato di un'occupazione che organizzammo nel novembre del 69 e il leader di quell'occupazione era Paolo Pagliaro, figurati te, vedi come le cose... Che aspettava di andare all'Alto Adige, però Cavazzani, che sarà stato, gli disse sì, va bene, voleva due cose dai redattori, che sapessero il tedesco e la stenografia, mi fa segno Sandra, perché senza la stenografia eri fregato, perché quando andavi alle conferenze stampa poi sono arrivati i registratori, sa Dio. E Cavazzani voleva stenografia e tedesco. E apprezzava moltissimo i giornalisti perfettamente bilingui. Quello lassù, sulla copertina, Pagani. Pagani sapeva 4 di lingue. Andò alle comunità europee dopo essere stato cacciato da Cavazzani, che assumeva e cacciava con la velocità di un missile. E Umberto Gandini, che fu l'unico dei 5 traditori, facile di tornare, certo. A cui fu permesso di tornare, gli altri no, ma lui sì, Umberto Gandini, che io ho intervistato sulla vicenda del giorno, era talmente da aver fatto traduzioni, credo che lo sappiate tutti, per il teatro, per la letteratura, era una cosa, ma era anche un giornalista di quelli tosti, veramente, e tornò, lui solo tornò dopo quell'avventura del giorno, gli altri andarono a Milano, alcuni, Gianni Bianco scriveva di sci, e Basile, me lo sono ritrovato a Bolzano nel 2012 perché era il direttore dell'Alpino quando ci fu la dunata degli alpini di Bolzano, mi fa, sono Basile. Io è stato basito. Bellissimo. Sono basito. Dicevo, tu hai detto sono basito. Ti faccio un'ultima domanda perché mi piacerebbe anche ascoltare chi ci sta ascoltando, che probabilmente può anche portare una testimonianza diretta, per cui sono contento di ascoltare domande fatte da chi ci ascolta, ma anche considerazioni fatte ad alta voce. L'ultima domanda che ti faccio però, Maurizio, è questa. Cos'è la cosa che proprio non ti aspettavi facendo l'inviato in biblioteca, l'inviato tra vecchi giornali? Cos'è la cosa che più ti ha sorpreso? Oltre, mi viene da dire, al ruolo di Servilio Cavazzani, perché è una delle cose che emergono dimenticate, come hai detto tu, in questo libro. Cavazzani no, perché come ti ripeto, io c'è a casa c'è in una casa, a casa mia c'è un album delle vecchie fotografie, come credo che mia moglie le ha messe a posto, e la prima che c'è è quella di un bambinotto davanti a un'enorme macchina da scrivere. Io ci sono cresciuto dentro quella redazione e quella sede, e Cavazzani, sia pure da lontano, perché era un soggetto che non ammetteva confidenze e non aveva familiarità, a differenza del figlio, che invece era un amicone, un compagnone, Lui no, me lo ricordo e l'ho sentito parlare, l'ho sentito. Quindi sono tutti ricordi che fanno parte anche di un vissuto personale, perdonate, è così. È una storia, quella della mia famiglia, quella di mio padre, quella del coso, che è un po' simile a questa. Siamo cresciuti in quell'ambiente lì e quindi alcuni ricordi. Non so, sono una domanda che mi mette un po' in difficoltà, sorprese, ma sicuramente alcune cose, una cosa che riesce non a sorprendermi ma a infastidirmi è che per esempio in una biblioteca come questa, ma anche alla Civica, consultare online l'Alto Adige è le annate, che sono la storia della nostra città e che dovrebbero essere... Mi mette sempre fortemente in difficoltà. Ci sono dei CD che bisogna infilare in un computer. Alla Tesman e Dolomiten lo trovo dall'inizio alla fine e trovo i giornali. Questa biblioteca ha pubblicato la provincia di Bolzano. Ecco, non abbiamo parlato di quella fase. La provincia di Bolzano è il giornale fascista, che esce dal 1900. Anche le censure, no? Per cui puoi raccontare meglio, sì, quella parte. Qua il giornale esce fino al 1943 e dal 1932-33 è diretto da mio padre, che è il direttore anche del giornale tedesco, l'Alpenzeitung, che è un tentativo vano di contrastare, di diffondere la voce del regime nel mondo tedesco. A Trento esce il Brennero. Ecco, a questo proposito c'è sempre, anche in quegli anni, una forte polemica. I trentini non hanno apprezzato la decisione di Mussolini di creare la provincia di Bolzano, non piace loro questa cosa, vorrebbero che questa fosse gestita da Trento, tant'è vero che il Brennero si impanca in una polemica contro il nome Alto Adige, figuratevi, Ettore Tolomei, chiamandolo Alto Trentino, dopodiché vengono schiantati a rasi al suolo da Tolomei, che era peggio di una squadriglia di bombardieri su queste cose. E in quegli anni sicuramente, per esempio, tu parlavi del Gazzettino, ecco una cosa, a Bolzano si vendeva più il Gazzettino che la provincia di Bolzano, perché la gente apprezzava il fatto che forse c'erano più notizie, c'era più cose, c'era la provincia di Bolzano era abbastanza un foglio d'ordine. Poi con l'8 settembre del 43 si chiude tutto, i nazisti portano tutto, carta, macchinaria, seminario minore di Bressanone, e lì stampano una robetta che non ha rilievo. E poi col maggio del 45 si ricomincia, e anche qua c'è la nascita dell'Alto Adige, che Gianni Faustini racconta meravigliosamente, per cui i fondatori sono più di 100, non è uno il fondatore della domanda, mi spiace qualcuno, cioè sono più di 100 i partiti del CLN, giornalisti, tipografi, aveva una quota perfino la donna delle pulizie. Poi dopo, con gli anni, il numero degli appartenenti diminuisce, i giornalisti, i tipografi mollano e rimangono i partiti. Il principale riferimento politico, anche questo è da tenere presente, è un democristiano, Angelo Facchin. Angelo Facchin, democristiano su posizioni di rigida difesa della nazionalità. Poi le cose cambiano nella DC alla metà degli anni 50, con un passaggio che non è ancora stato messo bene in chiave. Facchin e il suo gruppo vengono buttati fuori e al loro posto vengono nominati due commissari, Lidia Menapace e Luigi Farias. E quello è il momento chiave in cui parte. Invece il giornale resta in quella fase lì. E poi dopo c'è tutto il resto. Le storie a Trento sulla divisione dell'eredità fascista sono una bella faida, direbbe. Vinta. Il Gazzettino mi... Ah, sul Gazzettino mi viene da dirti una cosa più da sociologo, che riguarda anche l'Alto Adige, perché spesso amiamo di più chi ci guarda da fuori. Per cui il successo del Gazzettino a Bolzano, ma anche a Trento in un periodo, così come il successo dell'Alto Adige a Trento, era dovuto anche al fatto che fosse il giornale che arrivava da fuori, come se fosse più obiettivo, anche nella percezione di chi lo leggeva. Hai avuto anche tu questa sensazione? Perché effettivamente a volte non ci fidiamo del vicino di casa, abbiamo bisogno di qualcuno che ci guardi da lontano. Ma sai, Guccini nella sua canzone, una delle canzoni più note, dice: e alcuni audaci in tasca l'unità. Beh, nel Trentino andare in chiesa la domenica con l'Alto Adige in saccoccia poteva non essere un'esperienza simpatica, no? Perché, ecco, non era, cioè non è mai stato un giornale di sinistra, Cavazzani si sarebbe sparato a zero, però era il giornale che dava la voce, che dava l'impressione a una parte di quella società che non si riconosceva nel cattolicesimo e nel poi Dorotea arriveranno dopo perché ci si dimentica sempre queste cose, comunque di una certa manima della Democrazia Cristiana. L'Alto Adige nel Trentino è l'altro giornale, quello che non è il giornale cattolico di Flaminio Piccoli. A Bolzano invece è il giornale degli italiani, è il giornale che difende il gruppo italiano e che politicamente parlando oscilla, ma non si lega mai è stato raro che l'Alto Adige nella sua storia facesse proprio, sposasse un personaggio o una cosa specifica. Cavazzani viene eletto in Consiglio Comunale per il Partito Repubblicano, ma non è certamente. Anzi, girava questa voce terribile che il giornale se appoggiava a qualcuno, quel qualcuno fosse il bacio della morte, ma anche questa è una battuta, una cattiveria dovuta. Ci sono stati un paio di episodi che tenderebbero a confermarla, ma insomma lasciamo perdere. Beh, io credo che poi anche Boesso fece carriera politica, per cui insomma ci sono due passaggi da quel giornale, di fatto poi da Video Bolzano, insomma un'altra storia. A me piaceva appunto anche ascoltare, ho visto in sala, seppur non sia facilissimo riconoscerli da dietro, alcuni protagonisti del tuo libro, di fatto. Mi piaceva sentire le loro voci, sentire se vogliono farti una domanda, se vogliono farmi una domanda, e anche magari sentire se hanno delle considerazioni da fare, visto che sono tutti in piccolo e in grande dei protagonisti di questa vicenda. Ovviamente da qua mi è difficile passare il microfono, ma semmai chiedo a te, Maurizio, aiuto. No, c'è un... Ecco, l'importante per me è che ci sia il microfono, perché sennò non sento. Grazie Maurizio, grazie Alberto. Maurizio, ti ringrazio. Naturalmente sono andato subito a rileggere le parti dove compaio anch'io, ovviamente. Ti ringrazio per quello che hai dedicato al giorno, che è stata un'esperienza umana e professionale grandiosa. Dopodiché volevo fare un appunto, dare una spiegazione, dove parli di quel passaggio che ci si vedeva la sera tra giornalisti da, ecco, forse lì c'è una piccola lacuna nel libro che non ho letto ancora e forse non è una lacuna, il ruolo del sindacato giornalisti. All'epoca nacque il sindacato giornalisti regionale Trentino e Alto Adige, con italiani e tedeschi dentro, per cui sì, questi erano l'inizio degli anni 70 e tutti i giornalisti migliori facevano il sindacato allora, c'era dentro il papà di Alberto, c'era naturalmente Piero Agostini, c'era Cagola Trento, c'era Cucera, giornalisti italiani e sudtirolesi insieme. È stata un'esperienza formidabile. Siamo ancora l'unica categoria in regione che ha un organismo regionale, l'unica categoria, che non ha un organismo provinciale che comanda, è un organismo regionale. Per quello è stata un'esperienza unica e quell'amicizia del trovarsi fuori, del dialogare, è nata anche grazie a questo. Ha avuto un ruolo importante. L'altra cosa che volevo dire, ma sono battute, non è vero che l'Alto Adige non ha mai sponsorizzato figure. C'è stato un periodo in cui c'era un nostro vicepresidente della provincia importantissimo che è stato ritenuto quello più autorevole, che compariva anche 7 volte al giorno sul giornale. Ve lo ricordo, non gli avevo, ecco, questo va bene. L'ultima cosa, di regionale adesso è rimasta una cosa, l'editore è rimasto regionale, Tony Ebner e la tesi, questo c'è di regionale adesso. Ecco, sul sindacato hai perfettamente ragione, io ne parlo, Tony, quando parlo di Gianni Faustini da un lato, che è quello che mette in piedi l'ordine e che poi diventerà presidente nazionale, e del sindacato ne parlo tratteggiando la figura di Piero Agostini, con il quale nasce il sindacato, loro due, ordine e sindacato, quando ci stacchiamo da Venezia, e quel ruolo di Piero nel sindacato è fondamentale. Sull'appoggio cito solo un fatto, senza citare nomi, perché l'Alto Adige nel primo passaggio dopo l'era Cavazzani passa sotto Caracciolo. Caracciolo era socialista, c'erano le elezioni, il giornale viene obbligato a sostenere un candidato socialista che viene trombato come da programma. I democristiani di Bolzano la sera delle elezioni salgono in macchina e vanno a Lungotalvere a San Quirino a suonare i clacson per mezz'ora sotto la sede del giornale in segno di irrisione. Vabbè, stupidaggini, cosettine, però quello fu un passaggio nel quale il giornale fu portato da quel editore che poi rimase pochissimo, perché poi Caracciolo vende agli Agnelli e poi via via via via. Ve lo leggete sul libro, tutti i vari passaggi, perché sono dall'inizio degli anni 70 fino al coso, sono diverse i passaggi di proprietà di questa seta, di questa società editrice del giornale. Fin da capo posso dire una cosa, ragione Tony, perché sindacato e ordine effettivamente sono le prime vere esperienze regionali, ma anche le uniche. Perché io posso testimoniarlo direttamente, quando ho cercato di dirigere in contemporanea l'Adige e l'Alto Adige, non mi è stato concesso di fatto di provare a ragionare in termini regionali, per cui c'è ancora molta strada da fare. E sul vicepresidente che era spesso sui giornali, io mi ricordo però che quando eravamo insieme al Mattino Toni era sempre in prima pagina, perché lo cercavano prima, lo trovarono poi, lo arrestarono infine, per cui, come dire, ha un po' anche pagato quella sovraesposizione, diventando un po' il simbolo prima di tutto il bene possibile, poi di tutto il male possibile. Mi piacerebbe sentire anche altre voci di colleghi, ho visto appunto, non so se la chiamo, mi pare Sitton, Bragagna, tanti altri, insomma, mi piacerebbe sentire anche la loro percezione di quegli anni. C'è una cosa, scusate, solo una. Sandra. Io vorrei solo, mi è venuto in mente un dettaglio. Io sono stata assunta all'Alto Adige il 1 febbraio del 1980, nel posto lasciato libero da Pagliaro. Pagliaro andava a Padova, io arrivavo da Padova. A quel tempo il gruppo Corriere della Sera, tanto per intenderci, Tassandin and Company, possedeva tantissimi non giornali, Corriere di Informazione, Corriere della Sera, il Piccolo di Trieste, il lavoro di Genova, il Mattino di Napoli, l'Alto Adige di Bolzano. E io ho cominciato a lavorare in nero già allora a Padova, si chiamava L'Eco di Padova, è un giornale che è durato 2 anni in un momento in cui a Padova c'erano 5 quotidiani, il Gazzettino, il Resto del Carlino, il Mattino di Padova, L'Eco di Padova e poi non mi ricordo chi fosse ancora il quinto. E quindi il giornale chiuse perché si spartirono la piazza, nel senso che i due grossi gruppi, Caracciolo e Espresso, diciamo, e Corriere della Sera, si misero d'accordo di lasciare la piazza di Padova al Mattino, chiudendo il giornale, il Corriere della Sera, che otteneva in cambio la possibilità di fare il primo quotidiano, diciamo popolare, che era al tempo un po' sulla falsariga dei giornali anglosassoni, che si chiamava L'Occhio, ed era diretto dal papà del Di Bella. Esatto, quindi per dire, in questa spartizione di una piazza dove c'erano 5 quotidiani, si leggeva moltissimo, io venni mandata a Bolzano. Perché? Perché quando decisero di assumermi, e dissero, io lavoravo in cronaca, ho sempre fatto la cronista di nera, 7 aprile, la mala del Brenta, i sequestri, eccetera, eccetera. Quindi in fase di decisione dove mandiamo questa qua, che dobbiamo assumerla, se no ci fa causa di lavoro, c'era Tassandini in persona, e qualcuno disse, beh, va a Trieste. Vi racconto questo perché voglio poi tratteggiare un ricordo di tuo padre. E a Trieste dissero no, non è politica del piccolo avere donne in cronaca, la mettiamo agli spettacoli. Io ho detto no, gli spettacoli no, c'entro io con gli spettacoli. E allora ti mandiamo a Udine, cioè se dovevo fare la cronista dovevo farlo nascosta. E ho rifiutato anche lì impuntandomi. Allora c'era Andriolo, che era nel comitato di redazione Corriere della Sera. E allora mi dissero domani alle 10 a Bolzano. Io partii, arrivai appunto alla sede che era ancora a Ponte Druso e bussai alla porta di tuo padre. Tuo padre non c'era. Allora mi mandarono dal vice direttore, che era quel toscanaccio di... come si chiamava? Trivelli, il toscanaccio di Trivelli, che mi disse, sì, tu che facevi a Padova? Facevo la cronista di nera, si è fatto questo, quello, quell'altro. Mi disse, no, qui tu dai carabinieri non vai, le polizie non vai, perché una donna non danno le notizie. Io ero l'unica donna in cronaca, sono stata per lunghi anni l'unica donna in cronaca, a parte un breve passaggio della Cristiana di San Marzano di 9 mesi. Sì, prima, ma dico... di tutta la storia dell'Alto Adige finché io arrivai in cronaca, poi con Alberto per fortuna ce ne sono state tante altre. Allora che succede? Dopo un po' arrivò il vero direttore, quello vero come lo chiamava, e anche lui mi fece la stessa domanda. Io dissi, fatto così e così, hai parlato col vice direttore? Dico sì, che t'ha detto? E mi ha detto che io ero piuttosto avvilita, non posso fare la cronaca perché sono una donna, perché i carabinieri non mi danno le notizie. Lui mi ha guardato e mi ha detto, tu domani alle 11 vai a fare il giro di nera, cioè vai a fare quello per cui, perché, questo per dire quanto lui, democristiano, cattolico, era senza pregiudizi e laico nell'essere giornalista. Adesso, prima di dare il microfono a Aldo, io vorrei ricordare una cosa. Questo libro ha una sua genesi anche in un paio di, Sandra ti chiamo a testimonianza, di incontri che facemmo per la formazione dei giornalisti alcuni anni fa. Lo scheletro di questo libro è le cose che io dissi allora. Quello a Trento io lo ricorderò sempre, perché Sandra volle che ci fosse Gianni vicino. E Gianni e tu. E a parte il fatto che iniziamo un percorso sul ruolo delle donne nel giornalismo di questa regione, che forse avrebbe dovuto trovare una cosa, a me sarebbe anche piaciuto, però qualcuno di a me molto vicino mi dice sempre no, non lo devi scrivere tu, questo lo devono fare le donne, in attesa che lo faccia Sandra, che sarebbe... Io ricordo quella volta, perché si partì con Gianni su questa cosa, su questo, e vennero, c'erano in sala diverse anche allora, diverse vecchie glorie, e come De Battaglia, e fu interessantissimo il percorso che facemmo ragionando su come è cambiato. Le redazioni dei giornali sono, dal punto di vista del sessismo, credo gli ambienti più tossici che si possano immaginare. Scusate, è un'affermazione forte. Lo sono state, non lo sono più, spero, lo sono state. Beh, ricordo sempre che a Verona c'era il mitico direttore dell'Arena, il quale non permetteva nemmeno che le collaboratrici salissero in redazione. Dovevano consegnare gli articoli sotto. Chiudo, Aldo. No, perché su questo volevo fare una chiosa, non la faccio dopo. Non sono un giornalista, no? Però sono stato scritto 40 anni all'Albo, però mi è arrivata anche la come praticante, no. Volevo dire, fare i complimenti a Maurizio per questa ennesima ricostruzione che ritengo molto utile. Però appunto c'ho una parola che mi gira nelle orecchie, cioè l'opposto, diciamo, rispetto alla parola monopolio, no? Che è stata sottolineata anche nella sua origine, nella sua nascita, durante il fascismo, ma anche per quanto riguarda la stampa di lingua tedesca. La parola che mi viene in opposizione a monopolio è pluralismo, no? E volevo chiedere a te, Maurizio, e anche al direttore Faustini, come la vedete voi rispetto al pluralismo nella nostra regione e provincia, anche tenendo conto del fatto che in nome di una legge, tu nel libro lo racconti, di una legge antitrust, no? Cioè antimonopolio, che costringe una proprietà a dismettere l'Alto Adige, no? Perché non è più possibile, appunto, a livello nazionale c'è una concentrazione di testate che deve essere evitata, si crea un monopolio a livello locale. Ecco, volevo sapere se secondo voi, secondo te come autore, il direttore Faustino poi anche è stato un attore di questa, cioè protagonista anche per partecipazione diretta a questa storia, se il pluralismo nella nostra terra, anche se i giornali si leggono di meno, sono meno influenti, eccetera, è in qualche modo stato indebolito da questi avvenimenti. Io faccio rispondere prima a Faustini. Sembra un'ottima scelta, insomma, ottima scelta. Fammi solo riprendere, prima di rispondere ad Aldo, che ringrazio, fammi riprendere il discorso di Sandra, perché è un discorso che mi è molto caro. Io mi vanto di aver nominato la prima capocronista della storia dell'Alto Adige. Qualunque cosa accada in futuro, la prima resterà Francesca Gonzato, così come avevo nominato al Trentino Chiara Bert, prima capocronista di quel giornale, cioè non prima caposervizio, prima capa della cronaca delle pagine di Trento, prima capa delle cronache di Bolzano. Lo dico perché Maurizio nel suo libro spiega quanto sia importante il ruolo del capocronista in un giornale locale. Ho un rimpianto, ve lo dico, perché tutte le colleghe ancora in forza all'Alto Adige non hanno figli. Questa è una cosa che mi fa piangere il cuore e che mi fa molto riflettere. Invece, venendo ad Aldo, dico due cose. Una, il monopolio, ahimè, è deciso dal mercato, nel senso che da una parte c'è la follia di una vecchia legge che ha costretto allora De Benedetti a vendere l'Alto Adige come se, come dire, il peso dei quotidiani stabilito da un'antica legge fosse lo stesso oggi rispetto a quello che c'era negli anni 60, per cui non aveva assolutamente senso. Fra l'altro, avere un editore lontano aiutava la libertà di noi giornalisti. Su questo ti dico anche che io ho cercato, finché ci sono riuscito, di fare il garante rispetto a questo, cioè di portare avanti una linea editoriale decisa e concordata con gli editori precedenti, per cui in questo senso sono stato subito da Ebner, che mi ha trovato nel giornale, ma che, come disse De Benedetti un giorno quando mi chiamò a Roma, comprò l'Alto Adige con me dentro, cioè mi riteneva comunque indispensabile questo ruolo di garante. E dicevo il mercato, perché la verità è che l'Alto Adige non ha cercato di comprarlo nessuno quando De Benedetti l'ha messo in vendita, se non, guarda caso, Michele Ebner e il gruppo Atesia. E è successa la stessa cosa a Trento con l'Adige. L'Adige è stato in vendita per oltre 10 anni, e gli imprenditori trentini sono bravissimi a lamentarsi quando poi a comprare qualcun altro, ma per 10 anni nessuno ne ha voluto sapere di comprare l'Adige. Si è svegliato Manzana facendo il tè quando si è accorto che nel frattempo nasceva un monopolio, però va anche detto che nessuno ha avuto la capacità di arginare economicamente questo avvento di Ebner. Aggiungo una cosa, e lo dico sapendo che mi ascolta ad esempio Paolo Berloffa: ci fossero stati gli Alcide Berloffa, ma anche Giorgio Portale e altri, questo non sarebbe accaduto. Quando Ebner comprò l'Alto Adige, solo una persona intervenne per porsi il problema un po' a livello nazionale, e si chiama Lorenzo Dell'Ai, che aveva capito quello che stava accadendo. Quando Ebner comprò l'Adige, nessun politico si alzò o si fece delle domande. Cioè, c'è stata un'assenza mostruosa, non solo degli imprenditori, ma anche della classe politica, che non si è stupita, che non si è posta domande, che non ha provato anche a costruire dei tavoli di lavoro come si faceva un tempo per trovare all'interno, ad esempio, dell'imprenditoria locale italiana, nel caso dell'Alto Adige, o dell'imprenditoria locale trentina, qualche possibile protagonista in grado di tenere il giornale e i giornali fuori dal monopolio. Per me è stata una pagina molto triste, perché mi sono sentito in quei mesi, in quegli anni, molto solo, sapendo che un giorno poi la mia stagione sarebbe finita. Oh, e mi pare che questo è già parecchio. Io vorrei aggiungere però una cosa, Aldo. Cioè, attenzione, parliamo di pluralismo. Pluralismo, cosa intendiamo? Intendiamo la possibilità di chi cerca informazione di abbeverarsi a diverse fonti. Allora, se noi prendiamo l'Alto Adige del 45-70, in campo italiano c'è solo il giornale Alto Adige. Sì, va bene la RAI, però la RAI cresce lentamente in quegli anni. Sì, è la RAI di Faustini e Agostini, però ricordiamoci, va in onda un giornale radio e basta, la televisione arriverà nel 79. Campo tedesco c'è solo il Dolomite. Di che pluralismo stiamo parlando? La Volkspartei decide di farsi un settimanale per conto suo e la tesi dice no, vi diamo due pagine sul Volksbote e noi facciamo il resto. Quindi anche quello, cioè, non oggi, bene o male, io non voglio sminuire l'importanza di tutto quello che ha detto, ma un certo pluralismo di possibilità di accedere a fonti diverse c'è. Cioè, nel campo tedesco, pensiamo all'esperienza di FF, pensiamo all'esperienza della Tageszeitung, e pensiamo alla RAI di lingua tedesca, pensiamo ad altre realtà che si pongono. E pensiamo a... sì, poi ci sarebbe tutto un discorso da fare sulla stampa ladina, ma cioè, ragazzi, l'enciclopedia... basta, cioè non si può... Anche lì sarebbe interessante. Non. Allora, il pluralismo oggi, secondo me, c'è una pluralità di fonti di stampa maggiore. È chiaro che questi signori che controllano il mercato della pubblicità, perché è questo poi il ragionamento, il mercato della pubblicità è totalmente in mano a loro, lo possono offrire a tutti. E si preoccupano anche se magari un piccolo sito mette un banner di una cosa, gli telefonano, non sono preoccupati, vogliono la trattare. E quello è, cioè, questo è un dato di fatto che sicuramente ha il suo peso, salvo poi capire, perché anche lì le posizioni sono diversificate e sono cose in che cosa si esercita la linea. Qual è la linea? A volte è difficile, francamente, capire. Campo tedesco è abbastanza chiaro, insomma. Non... Altri? Chiaramente la situazione è diversa cioè il pluralismo c'è, nel senso che non ha mai, però voglio dire, se c'è una legge antitrust, o non hanno senso queste leggi, ma non le puoi applicare a livello nazionale, anche se con tutti i limiti che sono stati segnalati, e poi a livello locale non va. Cioè, voglio fare un esempio: se qui arriva Musk, no, che ha 56 miliardi di utile, si può comprare tutta l'informazione. Le leggi antitrust servono, secondo me, a cercare di impedire che ci siano dei personaggi, nel nostro caso sono due fratelli cattolici, che, come li chiamano, come li definiscono in tedesco, che però di fatto hanno in mano i due più importanti quotidiani della nostra provincia. Questo, io mi credo da un punto di vista legislativo, so che c'è stato un tentativo, no? Di Dell'Ai, credo proprio, di fare una proposta. Sì, no, però, scusa Aldo, intervengo, perché... Il tentativo in realtà è stato di Bressa e da altri. Bressa, scusa, di Bressa, scusa. Di togliere i finanziamenti al Dolomiten, non è così che si risolve il problema, anzi così probabilmente i giornali chiudono, chiude il Dolomiten e chiude l'Alto Adige. E purtroppo la legge è nazionale ed è assolutamente sbagliata. L'esempio che fai è molto corretto, perché io so per certo che interessarsi dell'Alto Adige in quella breve stagione in cui venne messo in vendita da De Benedetti ci fu anche un certo Becco, per cui oggi potete farvi qualche domanda anche su questo, cioè chi sono i possibili monopolisti. Il problema è che se il mercato dice che c'è solo una persona interessata a comprare un prodotto, allora Houston abbiamo un problema. Sono quasi le 19, cerco di essere insolitamente breve. Innanzitutto, innanzitutto te, come storico scrittore, io ti conoscevo, grande giornalista, i complimenti a Maurizio. Ho un grandissimo dispiacere che per la mia maculopatia, per la mia malattia, non riesco a leggere il giornale. Vedrò forse di farmelo leggere, e questo proprio mi dispiace moltissimo. Io vengo, come si dice, dall'età della pietra del giornalismo, quando non esistevano computer, cellulari, smartphone, eccetera, e ho una montagna di ricordi di quel periodo. Però mi limito solo a due piccoli episodi. Uno, visto che c'è qui anche Paolo Berloffa, oltre che a lavorare al giornale locale, avevo diverse corrispondenze con giornali nazionali. Un giorno, erano gli anni ruggenti, alla fine degli anni 60, ho scritto che l'onorevole Alcide Berloffa fa praticamente il postino tra Vienna e Roma, e questo tra virgolette. Poi avevo aggiunto: così scrive oggi la Die Presse di Vienna, commentando la situazione altoatesina. L'articolo esce, si vede che era un po' lungo, ma hanno tagliato le ultime tre righe: così scrive oggi la Die Presse di Vienna. È rimasto scritto: e Alcide Berloffa fa il postino tra Vienna e Roma, firmato Franco Sitton. È venuto in redazione, me ne dette di tutti i colori, era furioso, non è il modo di fare giornalismo. Paolo, non ne dubitiamo, vero? No, allora, no, è una reazione più che comprensibile. Poi eravamo abbastanza in confidenza. A proposito di Alcide Berloffa, e con questa domanda chiudo, volevo chiedere, secondo te, nasce, io ho visto bene nascere il giorno con il quale poi ho collaborato per altri 20 anni, il giorno nasce perché c'è l'ENI, e c'è indubbiamente, un giornale non nasce da zero se non c'è una forza economica e una base, però che ruolo ha avuto Alcide Berloffa nella creazione del giorno a Bolzano per contrastare quello che avete giustamente chiamato l'Alto Adige, il giornale degli italiani, il giornale di un eccessivo nazionalismo? Grazie. Allora, due cose. Uno, il ruolo di Berloffa è decisivo perché è l'uomo di raccordo fra l'istanza locale e l'istanza nazionale. Lui era l'uomo di fiducia di Moro e poi di Andreotti per quello che riguardava le cose altoatesine. E quindi nel momento in cui qui occorre in qualche modo tirare, io ho l'intervista con Gandini che dice: Berloffa era, noi non lo vedevamo molto, dice, però sapevamo che dietro tutto c'era lui. Oh, e questa è una cosa, e quindi il ruolo di Berloffa è fondamentale. Era l'uomo di raccordo, era la stessa corrente, non c'è dubbio. Io vorrei dire una cosa, quelli di voi che hanno la copertina del libro, perché non l'abbiamo detta, invece è simpatica. La fotografia che sta in copertina, eccola qua. Allora, questa è una fotografia che abbiamo tratto qua, Giuliano Geri, che è l'impareggiabile editor di questo volume, come sempre, perché senza di lui non sarebbe venuto così bene. E è scattata, come vedete, davanti a un cinema. C'è un John Wayne. Ora, voi dovete sapere che la Volkspartei negli anni 50 e 60 diverse volte fece i suoi congressi a porte chiuse al Cinema Roma. Cinema Roma è questo, è dove siete in questo momento. Se voi salite sopra c'è ancora la sala con le modanature del cinema, la struttura fisica. Noi siamo in platea al Cinema Roma. Il Cinema Roma era un cinema di seconda visione, il che vuol dire che arrivavano i film, non quelli prima che andavano all'Augusteo o al Capito o al Boccaccio. Quella seconda visione era quelli che costavano un po' meno e la First Party ci faceva. Quindi questa foto è stata scattata là fuori, quando uscite adesso su quei gradini, è stata scattata esattamente lì. E tra i giornalisti io riconosco in primo piano Pizzi, che era uno dei quattro Rivani venuti nel 45, Boesso, Pizzi, Armani e un altro che adesso non ricordo. E penso Rischi. Dietro di lui c'è Pagani. Pagani era quello alto con gli occhiali, era un fior di giornalista, quattro lingue, poi Cavazzani lo cacciò. Poi ci deve essere un questurino, perché anche loro erano interessati a capire cosa Maniago usciva dalle porte chiuse a raccontare. Ecco, e poi in questo in fondo, io sono settimane che giro a far vedere sta foto cercando di risolvere, potrebbe essere il papà di Otwin Nordhorst, potrebbe essere questo qua, più in lato, questo giovane. Qua siamo negli anni 50, sai? Ecco, questa foto mi è parsa significativa così, di un certo mondo, di un certo rapporto, di una stampa, di un mondo. Comunque è stata scattata qui, è stata scattata a 5 metri da questo posto, perché la First Party faceva i congressi a porte chiuse. Dopo arriveremo ai congressi a Merano, porte aperte, conferenze stampa, ma all'inizio li faceva a porte chiuse e ovviamente i giornalisti e i questurini erano parimenti interessati a sapere che cosa succedeva. E io direi con questo, se non ci sono altre domande, di ringraziarvi tutti, di ringraziare Alberto. Ripeto ancora, posso, non avrei fatto cosa, questa presentazione con nessun altro, perché solo tu. volevo solo ringraziarti, perché effettivamente abbiamo condiviso anche pezzo di vita, seppur con, come dire, un'anagrafe leggermente diversa, perché entrambi abbiamo vissuto da piccoli latte in chiostro. Volevo però dirvi una cosa che mi sembrava banale, ma mi mancate molto, mi manca molto Coltrane, mi manca molto l'entourage, mi mancate voi intesi come colleghi e come lettori, per cui mi fa piacere che Maurizio mi abbia coinvolto anche se sono lontano, per cui grazie, grazie, grazie, e non è retorico. Arrivederci.